Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Siamo pronti ad emigrare, a partire e non tornare. Siamo pronti a respirare nuova aria nei polmoni, nei polmoni, nei polmoni, perché ci avete rotto la libertà. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. La ballata dell'emigrante, singolo di Luca Bassanese, registrato a Parigi con un gruppo di musicisti emigrati dalla Puglia, ci porta nel cuore di questa nuova puntata. L'inno di una generazione colpita da una grave crisi che non smette di sognare e, nonostante tutto, crede ancora in un futuro possibile e sostenibile. Una pizzica per raccontare l'esodo quotidiano di centinaia e centinaia di giovani italiani. Così si presenta la ballata. La frase della settimana è copyright del ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Il precariato e la fuga dei cervelli sono due patologie presenti soprattutto in Italia, ma non soltanto. Entrambi aumentano la disoccupazione giovanile. Occorre mettere in atto rimedi a queste due patologie. Per la Giannini deve esserci un mercato più pronto e preparato ad accogliere questi giovani laureati. Noi intanto suggeriamo candidamente ai nostri parlamentari di imitare Artur Dembski, 45enne membro del partito liberale polacco Tvoj Ruch. Dembski ha deciso di vivere a Londra come un immigrato in cerca di lavoro con un budget di 100 sterline a settimana. Ha intrapreso l'esperimento per capire cosa abbia spinto dal 2004 oltre un milione di connazionali a trasferirsi nel Regno Unito, quando un parlamentare italiano farà la stessa cosa. Accettiamo candidature di deputati e senatori a giovanitalenti@radio24.it. Scriveteci. Oggi restate con noi, tra poco l'intervista al commissario europeo all'occupazione Laszlo Andor, che dichiara la garanzia giovani può essere uno strumento contro la fuga dei cervelli in Italia. E molti dei nostri talenti guardano intanto già ben oltre l'Europa. Oggi tappa in Silicon Valley, California, calamita delle nostre menti più innovative. Nel mio lavoro specifico la differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti è abissale. E soprattutto le opportunità di carriera basate sul merito, direi che non ci sono paragoni. Gabriele Bernardinis, a 37 anni, è un design manager nel settore della microelettronica negli Stati Uniti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Ogni viaggio ha bisogno di una garanzia e di un solido progetto. L'Italia, con l'Europa, promuove il progetto Garanzia Giovani per aiutarti a intraprendere la strada giusta. Partita il 1 maggio la Garanzia Giovani Italiana. Il programma prevede oltre 1,5 miliardi di euro per garantire a tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati o net un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio. Fino al 31 dicembre 2015 i giovani interessati potranno aderire attraverso il sito web garanziagiovani.gov.it o sui siti regionali. Già quasi 30.000 iscritti nella prima settimana, uno su due ha tra i 25 e i 29 anni. A Giovani Talenti parla in esclusiva il commissario europeo all'occupazione Laszlo Andor. La garanzia giovani offrirà una chance ai giovani perché si basa sulle migliori pratiche europee, come quella finlandese o austriaca, paesi che non hanno visto calare il proprio tasso di disoccupazione giovanile, anche durante la crisi. Abbiamo analizzato questi modelli, abbiamo sviluppato una proposta europea sulla base dei loro risultati e sosteniamo i Paesi membri, tra cui l'Italia, a implementarla. C'è anche un meccanismo di solidarietà europeo per far sì che la garanzia giovani non resti un'idea, ma divenga realtà. Ma questa garanzia giovani può fermare la fuga dei cervelli dai paesi del sud Europa, come l'Italia? Sì, penso che proprio questo sarà uno dei benefici della garanzia, che impone all'ufficio di collocamento di lavorare con i giovani su base individuale e personalizzata. Spesso, infatti, a causa del malfunzionamento di questi servizi, i giovani hanno faticato a trovare opportunità nella propria regione o nel proprio paese, scegliendo quindi di emigrare. Non mi equivochi però, io non credo che la mobilità del lavoro in Europa sia una cosa negativa. Chi vuole lavorare all'estero deve poterlo fare, ma non deve essere una scelta dettata dalla disperazione. A causa di questa lunga recessione, l'occupazione ha sofferto in paesi come l'Italia. Nel breve termine, per molte persone, non c'è alcuna possibilità concreta di trovare lavoro. La crisi ha quindi obbligato molti cittadini a spostarsi. E questo ha causato pure situazioni di sottoinquadramento, persone assunte per mansioni inferiori rispetto alla loro qualifica, per cui non c'è solo un rischio di brain drain o fuga dei cervelli, ma anche un rischio di perdita di cervelli. Le piace la garanzia giovani italiana? La considera efficace? L'Italia deve fare molti sforzi per far sì che i servizi pubblici per il lavoro siano pronti alla sfida. Il paese è molto diseguale. In alcune regioni ci sono ottimi esempi. Cito il programma Giovani Sì della regione Toscana, ma in altre regioni, soprattutto al sud, ci sono molte debolezze. E su questo ci dobbiamo concentrare. A livello paese c'è pure un problema relativo al vocational training, la mancanza di opportunità di formazione duale. Questa è un'altra riforma che può essere realizzata sotto l'ombrello della garanzia giovani. Abbiamo notato infine un'ambizione italiana di allargare la platea dei beneficiari del piano fino alla fascia 25-29enni, superando lo standard europeo degli under 25. Se ci sono risorse disponibili, il paese deve essere ovviamente più ambizioso, ma ciò richiede anche molte più risorse di quelle presenti. Per questo incoraggiamo i paesi a focalizzarsi innanzitutto sulla fascia 15-25 e solo quando questo piano si rivelerà un successo, allargare il programma ad altre categorie o fasce d'età. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in California, là dove i cervelli arrivano attirati dal miele di un ambiente competitivo e dinamico, dove chi investe in formazione vede realmente promosso il proprio talento. Quanto è lontana l'Italia degli ascensori sociali bloccati, dove possedere una laurea può essere un peccato capitale. Nome. Gabriele. Cognome. Bernardini. Età. 37 anni. Città di origine. Udine. Studi. Ingegneria elettronica a Pavia. Anno in cui hai lasciato l'Italia. Dicembre 2004. Per andare dove? A Los Angeles. Perché? Un'opportunità interessante. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono progettista e design manager. Dove? A San Jose, California, Silicon Valley. Tornerai? Tornerò in Europa. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustles grab your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. L'Austria, insieme a Germania e Gran Bretagna, è tra i miei target per un rientro lavorativo in Europa in un prossimo futuro. Sull'Italia temo che un rientro in una grossa azienda italiana costituirebbe uno shock culturale troppo grande. A tanto siamo arrivati, Gabriele, ho letto quello che hai scritto a Giovani Talenti. Siamo così poco competitivi e interessanti nell'attrazione di giovani professionisti dall'estero? Il mio settore specifico, nel mio lavoro specifico, la differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti è abissale. C'è una grossa azienda italiana e una grossa azienda straniera in termini di flessibilità di orario lavorativo e soprattutto di opportunità di carriera basata sul merito. Direi che non ci sono paragoni. Il tuo rapporto con l'estero inizia fin dalle scuole superiori, quando i tuoi genitori ti inviano nel Kent a studiare inglese. Poi, al momento della scelta universitaria, punti su ingegneria elettronica a Pavia. Perché questa scelta così tecnica? In realtà vengo da un istituto tecnico industriale come formazione superiore, quindi la scelta è stata abbastanza naturale. Sei rimasto soddisfatto dell'ambiente universitario in Italia? Potendo tornare indietro, partiresti direttamente per l'estero? Le scuole italiane in generale preparano molto bene. Mi sono trovato molto bene all'università di Pavia e rifarei esattamente lo stesso percorso. Se devo essere sincero, vedendo i miei colleghi all'università, all'estero facilita sicuramente l'ingresso nel mondo lavorativo, soprattutto negli Stati Uniti. Se dovessi migliorare qualcosa in università italiana, migliorerei la copertura dell'aspetto pratico della formazione, un po' più pragmatica, e sicuramente troverai un modo di promuovere la lingua inglese. La svolta vera nella tua vita, quella che segnerà la tua carriera, è l'internship di 6 mesi presso un'azienda di semiconduttori a Dallas, esperienza per certi aspetti scioccante, così la definisci. Quanto però si è rivelata fondamentale nel dischiuderti nuovi orizzonti? La parte scioccante è stata la gestione della logistica dell'esperienza, ma a parte quello è un'esperienza in una grossa azienda statunitense, sicuramente mi ha aperto gli occhi su come funziona il mondo lavorativo negli USA e quindi gli Stati Uniti in generale. Ti laurei un mese dopo il tuo rientro dagli Stati Uniti e qui, a sorpresa, complice anche la crisi del settore .com, opti per proseguire il percorso con un dottorato in università, sempre a Pavia. Hai mai pensato in quegli anni di proseguire in una carriera accademica? No, assolutamente perché, no. Perché? Ho visto troppe ingiustizie nel mondo accademico. Ad esempio? Nepotismi. Ad esempio? Beh, gente in gamba condannata da segni di ricerca vita mentre altri procedono per canali privilegiati. L'Italia, insomma. Nel triennio di dottorato collabori con alcune aziende italiane e hai l'opportunità di fare una seconda internship negli Stati Uniti, questa volta in una grossa azienda di semiconduttori in Silicon Valley. Quali sono state le maggiori differenze che hai notato tra il mondo del lavoro italiano e quello americano? Già allora lo scarto in termini di opportunità e prospettive era così forte? Sì. Sicuramente flessibilità, disponibilità delle risorse finanziarie delle aziende statunitensi non hanno paragone, efficienza della forza del lavoro, efficienza nel prendere decisioni. E poi ho incontrato diversi italiani che dopo essere scappati da aziende italiane dove era possibile fare carriera perché c'era gente inchiodata alle poltrone da anni pur non meritandosi, hanno fatto delle belle carriere negli Stati Uniti. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Gabriele Bernardinis, 37enne design manager nel settore della microelettronica in Silicon Valley. Gabriele è approdato in California dopo il dottorato, scoprendo un ambiente assolutamente flessibile e meritocratico nel settore del lavoro, lontano, anni luce dall'ingessata e nepotistica o familistica Italia. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Il mio futuro in Italia all'epoca sarebbe stato solo uno, finire nel calderone della più grossa azienda di semiconduttori con uno stipendio da fame e poche speranze di fare carriera, oppure una posizione da design engineer in Austria, ancora una da rotational engineer a Los Angeles, riassumi. Allora andiamo con ordine, l'Italia l'hai esclusa a priori per mancanza di opportunità di carriera reali o hai fatto qualche tentativo? No, in Italia non ho tentato neanche perché ai tempi l'unico posto dove volevo finire era l'Inter la milanese, la prospettiva di fare il pendolare con treni sempre in ritardo e timbrare il cartellino non mi esaltava. In Austria avevo firmato un contratto ma poi ho deciso di provare gli Stati Uniti. In Italia solo in rari casi ho visto esempi di persone meritevoli riflessi nella loro posizione all'interno della gerarchia aziendale, ci scrivi. Anche questo fattore ha contribuito ad allontanarti dal paese? Sì, sicuramente l'assenza di cambio, il cambio generazionale non lascia alternative a chi è giovane sogna di poter emergere. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Così, scartata l'Austria, è puntato verso la California. Dopo 9 anni e mezzo non siamo ancora rientrati, ti trovi a considerare, anche perché con la California è stato amore a prima vista, ricordi. Ci racconti con quale lungimirante programma sei stato inserito in azienda? Sono stato inserito a Los Angeles con il National Program, che praticamente è sviluppato per crescere la classe futura dirigente dell'azienda e consiste nel far provare dei neolaureati e neoassunti per un tempo limitato dei diversi tipi di carriera. È praticamente come una serie di stage aziendali o internship, l'unica differenza che alla fine dei 2 anni praticamente uno continua all'interno dell'azienda nel ruolo che gli è più affine. Dopo 3 anni a Santa Monica decidi di cambiare azienda trasferendoti in Silicon Valley. Di cosa ti occupi ora esattamente? Mi occupo di progettazione di microcircuiti integrati e di gestione di un gruppo di progettisti. Gabriele, con te mi vorrei concentrare su alcuni aspetti del mondo del lavoro a stelle strisce importanti. Il primo è la flessibilità, che tu descrivi molto bene. Il concetto del timbrare cartellino che hai citato prima è un reperto archeologico alla tua longitudine. Ci spieghi come funziona in California e perché funziona meglio? Beh, l'high-tech in generale è molto flessibile, soprattutto qui in Silicon Valley, quindi penso soprattutto per facilitare la creatività degli individui. Gli orari di lavoro non sono solamente ufficiosi, ma le scadenze sono ufficiali, quindi basta consegnare in tempo e la gestione del come è lasciata all'individuo. L'impiego poi è twill, cioè a piacimento, che è un'arma a doppio taglio, quindi se uno fa altrimenti. E qui si collega molto bene al concetto di meritocrazia vera, quella applicata, non quella teorizzata all'italiana. Chiunque qui può arrivare dovunque, riassumi. Come vivi nel quotidiano il concetto di meritocrazia? Sì, viene premiato chi contribuisce all'azienda. Le aziende lasciano poco spazio ai nepotismi e ai favoritismi. O le capie di vari. O le capie di vari. Sì, o le capie di vari. Un esempio, il signor Thompson di Yahoo, CEO di Yahoo, che è stato cacciato per aver scritto sul curriculum che aveva un diploma di laurea 2 anni fa, invece non ce l'aveva. Faccio una domanda a te, sarebbe successo in Italia? Ah, questa è una bella domanda e la giro agli ascoltatori, anche a chi magari ha responsabilità dirigenziali in Italia. C'è un aspetto assolutamente non secondario nella tua storia, quello relativo ai tuoi tentativi di riconnessione col sistema Italia. Il più importante ti ha visto tornare in contatto con la tua ex università per portare in California degli studenti nell'ottica di organizzare delle internships. Qual è stata la sorprendente risposta che hai ricevuto? Che gli studenti italiani non si vogliono muovere che non è una novità perché siamo dei mammoni, ma ragazzi, se non lo fate adesso, che avete energia e ambizione. Ci spieghi però la tua idea originale per avvicinare le università italiane alle grandi aziende americane? La mia idea originale è l'internship, che è quella attraverso cui sono passato io, che permette ad aziende che non hanno sede in Italia di poter apprezzare la qualità degli studenti italiani. Domanda diritto, Gabriele, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? L'Italia è sinonimo di qualità, di cultura e di inventiva. Se valorizziamo questi pregi, incoraggiamo le aziende straniere a investire da noi abbassando imposizioni fiscali, semplificando la burocrazia, forse le cose andrebbero un po' meglio. Non spaventiamo le prime che mettono piede a noi. Ci raggiunge ora in linea Luca Selmi, professore di elettronica all'Università di Udine. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Luca, Gabriele descrive gli Stati Uniti come un paese che guarda l'Italia come una sorgente di qualità. Proprio per questo rileva fa arrabbiare vedere come la penisola sembri inventarsene una al giorno per soffocare le proprie potenzialità. Che effetto ti ha fatto ascoltare la sua storia? Ha fatto l'effetto di sofferenza e anche di insofferenza. Chi, come tanti come me, in questi anni ha lavorato all'internazionalizzazione dei percorsi di studio, a creare di opportunità all'estero, sa bene che le competenze degli studenti italiani sono molto apprezzati. Gabriele viene da una delle migliori scuole di elettronica non in Italia ma al mondo, quella di Pavia. Quindi purtroppo gli USA non sono l'unico paese che apprezzano questo, perché anche in giro per l'Europa. Quindi da un lato forse viene da dire il problema non è soltanto o non è principalmente nella formazione. Anche per te, Luca, un anno e mezzo di esperienza californiana nel tuo passato. A differenza di Gabriele però hai optato per un rientro nei primissimi anni 90. Rifaresti quella scelta? Estrapolare a 20-25 anni di distanza. Io quello che posso dire è questo, è che quando ho avuto l'opportunità di unirmi all'Università di Udine, non ero da qui, quindi mi sono trasferito qui, qui ho trovato una piccola, perdonami l'espressione, land of opportunity, nella quale le mie competenze erano richieste e questo mi ha fatto sentire molto coinvolto, molto responsabilizzato a far crescere l'istituzione e anche gratificato quando ci sono stati i risultati. Credo che sia un po' questo quello che tanti giovani cercano. A Udine ed è questo anche il motivo per cui oggi ti ospitiamo, state cercando di avvicinare in modo concreto il mondo dell'università a quello dell'impresa, ed è un po' il discorso che facevamo prima con Gabriele. Quali strumenti avete messo in campo, ma soprattutto con quali risultati? Io credo innanzitutto che ci deve essere della ricerca e della didattica di qualità, senza le quali non c'è nessun sapere che possa essere valorizzato. Udine ha un rapporto fortissimo con il proprio territorio, io l'ho scoperto arrivandoci, perché è un'università molto giovane che è nata addirittura da un'iniziativa popolare. Terza missione, è un po' ancora un po' confusa, nel senso che viene confusa con l'esecuzione di attività professionali, persino in ambiente accademico, ed è ancora un po' difficile da valutare. Essendo poco valutata, si fa fatica poi a inserirla nei processi decisionali. Ci sono risultati, tu mi chiedi? Io credo di sì, voglio essere ottimista. Nel piccolo del nostro gruppo di ricerca di elettronica qui, noi siamo arrivati a partecipare a 10 progetti europei nel 7° programma quadro, credo che sia una cosa abbastanza particolare. Gabriele, hai una domanda per Luca Selmi? Sì, Luca, sulla fuga dei cervelli, c'è speranza che l'Italia diventi polo di attrazione per talenti, cioè divenire un paese non di fuga ma circolazione dei talenti internazionali? Ah, la speranza è d'obbligo, direi. Io quello che posso dire è che ci sono tanta parte dell'università che, e non solo dell'università, che sta lavorando per questo. Dobbiamo assolutamente il contributo di chi è andato all'estero e ha visto che le cose possono funzionare bene in modo un po' diverso, è assolutamente indispensabile. Grazie a Luca Selmi e domanda diritto a Gabriele Bernardinis. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Ai neolaureati e laureandi, se vi si presenta l'opportunità di esperienza all'estero, che sia accademica tramite Erasmus o aziendale, vi consiglio di prendere la palla al balzo. Ai giovani in generale, siete ambiziosi e prefiggetevi un obiettivo, buttatevi, vi rimarrà sempre la soddisfazione e l'orgoglio di averci provato e non mi rammarico di non aver nemmeno tentato. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo un Nuclear Fuel Cycle Security Officer per l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica a Vienna, scadenza per i CV 21 maggio, info su recruitment.iaea.org. Un esperto di comunicazione politica per Elia Group a Bruxelles, scadenza per i CV 20 maggio, curricula jobs@elia.be. E infine un ingegnere di progetto esperto in ingegneria ambientale e fisica delle costruzioni all'Istituto da Ricerca in Energia da Catalunya, a Barcellona e Tarragona, scadenza per i CV 20 maggio, info su irec.cat. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi ci occupiamo di un progetto Australia solo andata che ci porta agli antipodi e che si propone di studiare in modo analitico la nuova ondata di immigrazione italiana verso l'Australia. Silvia Pianelli, tra i fondatori di Australia solo andata, snocciola i dati del boom di espatrio verso la terra dei canguri. Australia solo andata è un gruppo di studio e il nostro obiettivo è quello di approfondire i vari aspetti dell'immigrazione giovanile in Australia per rispondere alle esigenze della nuova ondata migratoria dall'Italia in Australia. Quello che voi sottolineate, riferito al 2013, è che c'è stato un vero e proprio boom di giovani italiani. In dati, in cifre, come lo quantificate? Tutti i dati che abbiamo raccolto ci sono stati forniti dal Dipartimento dell'Immigrazione in Australia. Il primo dato più importante che emerge dal nostro rapporto è quello di 22.000 nuove presenze di italiani in Australia, un dato che supera quello dello storico fenomeno dell'immigrazione degli anni 50. Queste 22.000 nuove presenze sono suddivise fra residenti temporanei, permanenti e nuove cittadinanze. In particolare, il trend di italiani in Australia è un trend in crescita, perché se consideriamo per esempio il visto vacanza lavoro, cioè un visto per i cittadini di età compresa fra i 18 e i 30 anni, ha subito un aumento del 66% rispetto all'anno precedente, mentre il visto studente ha subito un aumento del 30% sempre rispetto all'anno precedente. Un aumento minore ha visto protagonista il visto 457, che è il visto lavorativo, lo sponsor, con un 25% di aumento rispetto all'anno precedente. Questo è il fenomeno, però secondo voi l'Australia è veramente in grado di offrire quelle opportunità che questi giovani cercano? Sicuramente l'Australia offre opportunità, c'è anche da dire che non è facile. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.australiasoloandata.com. Un motivo per restare o tornare. Fondazione Cariplo ha creato il Fondo per l'incremento dell'attrattività del sistema di ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori, obiettivo attrarre i migliori cervelli stranieri o mantenere sul territorio quelli italiani, affiancandosi ad enti che svolgono attività di ricerca scientifica in Lombardia e in alcune province piemontesi. La Fondazione ha lanciato il bando, che consentirà di attrarre almeno 10 ricercatori nei prossimi 12-18 mesi grazie a un budget di 2 milioni di euro per un contributo massimo di 200.000 euro per ogni reclutamento. Info su fondazionecariplo.it. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Quote Giovani. Dibatteteli in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di maggio. Quote giovani nelle assunzioni in posizioni dirigenziali, soprattutto nelle amministrazioni pubbliche, lo chiedono i giovani secondo una recente indagine Coldiretti. Siete d'accordo? Più under 40 nelle posizioni di management in modo obbligatorio? Dite la vostra. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.